boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Drago, perché non impari a usare bene gli oggetti? No, non hai manualità, non sai. Ma manca cos'è. Le unghie, sai, ma una no, cosa le importante. Unghie, sai cos'è? Che te, il pollice opponibile, cosa che ci distingue dalle scimmie, sì, non serve. Cioè, tu potresti essere una scimmia, uno scimpanzé. Probabilmente saresti un bonobo. Un? E ora, bambini, ricreazione! Siamo qui per la ricreazione, dove dobbiamo fare questa stramaledetta intervista. Allora, siccome mi ero iscritto, alla fine mi sono iscritto al contest di bellezza per bambine. Ti ho iscritto. Ci siamo iscritti. Ma ti era detto che quella roba lì si tralasciava? No. Stoppani team, beauty allora, team. Bellezza, so, quindi vabbè. Asilo Stoppani. Devi poi passare al trucco e parrucco. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del concorso, sì, del concorso di bellezza per bambine, sì, americano, a cui abbiamo iscritto il bambino Alberto. Che cosa farai? Perché sì, le bambine perché devono diventare essere un personaggio, anche... non solo essere bella. Ecco, ma le bambine, essere... per esempio, cantano, ballano, però quello non importa. Facciamo una prova di abilità. Quindi, l'altra volta abbiamo fatto questa cos'era? La famosa torta, la ricetta. Oh, la torta Margherita, allora, devi... paradiso. La torta Margherita? Sì, perché è una cosa da bambina, il cucinare. Torta paradiso, quella lì dell'arcobaleno. Sì, esatto, bravo. Allora, e qual è? È il dolce dei bambini, è il, sì, tipico dolce dei bambini. Il mio, gli dici, bambino, qual è il tuo dolce preferito? E lui va, è la tortina arcobaleno. Arcobaleno. E l'altro gli occhi fa la tortina paradiso. E quindi sono due torte diverse. Però è la stessa. Non lo sappiamo. Però, bianca okay, sopra, gialla. Però dobbiamo cambiare. Fare un primo. Sì. Dobbiamo fare sempre un primo. Un primo amato dai bambini. Primo. Ma questo è il secondo piatto che facciamo, non può essere il primo. Un primo di quelli amati dai bambini. Allora. Qual è il piatto più amato dai bambini? Come primo? Salato. Esatto. È un primo salato. Allora, primo. Facciamo prima, diciamo. Facciamo un le lasagne. Oh, no, le lasagne. Ma, allora, lasagne, sì. Perché lasagne. Veniamo come italiani in America, lasagna. La lasagna. Bologna. La tipica lasagna italiana. Esatto. Oh, allora, vai, vai bambina, con la ricetta. Quella di ispirazione, di origine romagnola. Sì. Emiliana, bolognese, emiliana. Va bene, quello Dai, allora, con dolcezza, condolisa. Allora. Lasagna ce l'ho, lasagna. Devo solo recuperare tutti gli elementi. Potremmo fare una lasagna paglia fieno anche. Sì. Perché la paglia fieno? Perché paglia fieno, poi tutta la bocca si asciutta. No, cioè, ma la paglia fai fieno, bianco, rosso, cosa... verde, no? Fai un po' l'Italia. Ma il colore? No, vabbè, faccio quella tradizionale. Lasagna. Allora, lasagna è complicata, perché è un piatto a strati. Sì. È una sono strati, una lasagna è una specie di parallelepipedo. Sì. Fatto a strati di, e qui viene bello, di pasta, ma non la pasta e spaghetti, tipo pasta, e pasta. Sì. Dei fogli di pasta. La pasta. La base è la pasta. Ecco, la pasta. Quindi, la... quindi per, noi li vogliamo fare come si deve, quindi non è che andiamo al supermercato a comprare la pasta, cioè facciamo la pasta noi. Pure. Certo. Cioè tutto fatto in casa, sì, sono ingredienti di madre natura. Vabbè, dai, stringati. Allora, fare forza, la pasta è una cosa abbastanza allora, semplice. Allora, ci vuole la farina. Per la pasta ci vuole. Sì. Farina. In relazione al tipo di piatto che dovete fare, no? Cioè dovete fare le lasagne per tre? Sì. Cioè, tipo, siete voi, vostra moglie e il bambino, siete tre. Lasagne per tre. Sì. Allora, farina. La farina per tre. Vabbè. Che lì uno si regola. Tu quanto farina vuoi? Ognuno chiede al bambino, chiede, tu quanti farina vuoi? E io, perché ognuno vuole la farina, no? Sì, ma il bambino che ne sa, cioè, deve anche decidere la quantità di farina che gli compete. Vabbè, sì, vabbè. Però poi lo decide la mamma. Ma lui va bene quel tot di farina. Ho capito, va bene. Allora, e quella è la farina. Allora, la quantità, no? Viene la, allora, la quantità, e questo è il bello di questa ricetta, che viene di natura, no? La metti su, una, su un'asse di legno. Sì, una... spesso legno massello, Sì. Vabbè, ma e metti la farina, metti quel tot di farina che hai deciso prima, no? Che è venuto di natura, sì. La metti lì, la metti, fai un po' di una specie di cerchio, no? Sì. La accumuli il cerchio e cerchio magico, e fai una specie di vulcano, no? Sì. Vulcano di farina, okay. Cioè fai simuli il cratere. Sì. E lasci lì, okay. Lo vedi? Tipo incontri la vicina. Che sembra proprio e no, perché c'è tutto il procedimento. Allora scusa, no, no, no, vai. Perché il lo vedi proprio vulcano e il buco, no? Che uno dice, questo buco ci sta qualcosa, e c'è. Cosa c'è? Che sarebbe l'uovo. Ah, beh, certo. L'uovo è, diciamo, è il fulcro di tutto. Cioè, intorno all'uovo gira tutti gli altri pianeti, gli altri ingredienti. Ma com'è un uovo? Esatto, qui ci arrivo. Per quello l'uovo è sempre l'uovo. Eh sì, perché c'è. Cioè, non è uova a quantità. L'uovo è uno. Cioè, allora, un buco nelle... devi fare le lasagne. Devi fare le lasagne per la tua famigliola. Siete in tre? Un uovo. Sì. Cioè, fai per tutta la classe la festa, la festa dell'oratorio, tu ti faccio la lasagnata domenicale, quindi sono 450 bambini, quindi 450 porzioni di lasagna, un uovo. Vabbè, e questo è questo vi dà le, e uno già quando sei sull'uovo sei già a metà dell'opera, no? Vabbè. L'uovo è uno, è la pasta, questa la pasta. Vulcano, no, l'uovo, però la pasta è l'uovo. L'uovo. Fai la pasta. Per il resto poi ci metti un po' di acqua. Un mese. E fai un impasto. Vabbè. Perché ha origine di tutto, come quello della tortina paradise. Come paradise, paradise adesso. Sì, paradise. In paradise. Ma non ci posso credere. Poebecates. Night ever to the high divine. Ma sai, Alberto è aveva meno 32 anni. Vabbè, Alberto, quando è uscito questo film. Va bene, dai. Allora, paradiso. Abbiamo detto che come la torta paradiso. C'è l'impasto. Vabbè, ma siamo ancora alla pasta. Ma ormai è lì. C'è l'impasto. Sì. Allora, c'è l'impasto, fai la pastura. Questa, ovviamente, va. Stesa. La impasti. Sì. No? E lì. Nuovo. Devi fare gli strati. Ma in mezzo a questi strati, cioè non è che sono l'impasto, ci vanno altri ingredienti. Allora, c'è la besciamella. La besciamella. Sì. A Milano si dice la besciamella. C'è la besciamella. C'è la besciamella, quella originale. Allora, non è qui, non è che qui facciamo il nouvelle cuisine. No, vabbè, ma la portiamo già fatta. La metti per ultima. Un barattolino di besciamella. No, noi fai. Gli altri ingredienti, ai bambini mica si interessa. Il ragù. Allora, quindi ragù uguale carne. Sì. Carne, ma non carne qualsiasi. No. Noi usiamo della carne speciale. Noi chi? Non della macinata di suino da 2 euro al chilo. Noi, devo dire, noi come gruppo, voi dovete, capito? Uno va a comprare la carne, devo fare le lasagne. Mamma mia, ma non vincerai mai questo concorso in America, cioè è impossibile, non puoi. Ma quando l'assaggiano poi? Perché qui viene bello. Allora, carne di altissima qualità. Sì. Quindi, cioè, tu stai a Milano? Sì, va bene. Allora dici, chiedi a qualcuno, scusi lei, qual è il miglior macello di Milano? Vabbè, non fare pubblicità. E lui ti dice, è quello lì. Guarda che è un po' caro, perfetto. Ti ci fiondi? Sì. Ti paga. Ti svuoti il portafoglio? Compri la miglior carne in assoluto? Vabbè, di qualsiasi animale sia, compri? Sì, vabbè, anch'io direi così, insomma. Me la macina? Sì. E lui dice, com'è macinata? E devo fare il ragù. Ma lei fa ragù con la carne da 250 euro al chilo? Lei non si preoccupi, prendi quella lì tu. Prendi quella carne, la porti a casa, macinata. Quello lo metti e poi c'è il pomodoro. C'è del pomodoro, no? Sì. Quello lo fai una specie di. In una padellina. Pomodoro. Ma la carne, La carne poi va cotta. Ma una cottura. No, vabbè. Una carne. La carne siamo le solite, come la farina, no? Allora, il bambino. Deve mangiare carne, ha bisogno, quindi tanta carne. Devo cuocerla bene. La cuocio in acqua. In acqua. Cuocio in acqua. Come in acqua? In acqua bollente. Allora così, metti. In acqua bollente. Per sbollettare. Però attenzione. Attenzione perché. Scusa, qua il regolamento è chiaro. Il regolamento dice che essendo per i bambini questo concorso. Devono essere ricette cucinabili senza l'utilizzo di fiamma viva. Facciamo la simeta? Secondo me è già tanto se arrivi lì, apri la scatoletta e dici ecco qua. E se facessimo la simeta noi? Cioè? Facciamo la simeta in casa, no? Sì, ma l'avrà fatta qualcuno, no? No, vabbè, ma è un procedimento industriale molto complesso che porta poi a. Ma no, allora pensa tu il gusto. Invece di andare al supermercato la simeta. Ma dai, costa anche poco. Me la compro, vado a vedere. Una roba così, sono a casa. Mi faccio la simeta lì, non mi faccio fregare dalla pubblicità. Vado io dal macellaio quello giusto. Però sta carne qua a 78 euro al chilo. Sì. La gelatina preparata solo 3 mesi. Ma come 3 mesi? Alla fine, un barattolino di simeta fatta in casa? Sì. Ti costa 82 euro. Però dici, la soddisfazione. Io quelli lì, il grano, li do. a questi qua, le multinazionali. Ho capito, ma, ma il gusto com'è? È identico, anche la forma. Sì, perché è lì la, la difficoltà. Perché il farla, prendi la carne fantastica, la cuoci nell'acqua, quella sì, la bolle, gelatina, fa l'impasto, dice adesso cos'è questo pasto? Devi fare la forma del barattolino, con anche quelle... perché c'è sul fianco il barattolino, sì, certo. Quelle striature lì che... Non è striature. Come si dice? Scanalature. Scanalature, sì. Che interno, devi farla così. E quando tiri fuori la semeta... Ma non è che la fai prima così, la fai e la metti, perché... perché la metti dentro, no, dentro il contenitore. No, invece siccome tu arriva direttamente in cucina, o è stasera semeta per tutti. Tutti contenti, dico, la semeta. Ma l'ho fatta io, vabbè allora. E non ci credono perché è identica. Ah. Sul piatto dice, quindi... ma l'hai tirato fuori dal barattolo? No! Ci ho messo 4 giorni a fare queste le scalature. Puoi non farle, almeno così ci credono subito. No, allora dico, faccio la simeta, visto vi dimostro che si può fare la simeta. Sì, con 82 euro barato, invece che dare i soldi alle multinazionali con 2,50 euro mezzo chilo. Gringo! Stai anche sbagliando la marca. Questa era la vecchia musica di un'altra carne in scatola, che non era Simmental. Quindi si lamenteranno tutti perché sono tutti precisi. Scrivete Drago, chiedo asilo, è radio24.it. Sta zitto. Qual era la carne di questa pubblicità qui?